sopra, di sotto, di lato, di fianco, di ballare questo beat e non mi stanco mai, e non mi stanco mai, mai. E non ti stancherai, mai. Tu mi seguirai, baby. Il basso gira come una trottola, fammi sentire che ti piace, dice sì. Bene, bene, bene, mi piace così. Senti questo ritmo che va, che va. Libera l'anima. Ok, ok, ok. Ok, ok, dimmi che ci sei. Fammi sentire che ti piace, grida forte, ok. Ok. Lascia di andare, baby. Lascia di andare. Segui questo ritmo che sale. Sale. Lascia di andare. Segui questo ritmo che sale. Sale. Non ti devi impressionare se cominci a sudare, fare meglio ad ascoltare e continuare a ballare. La carica ti arriva attraverso le casse, passa nelle tue gambe, nelle zone più basse, poi raggiunge le braccia, e ti si muovono in alto. E la carica passa attraverso le mani di un altro. L'energia si propaga con le onde sonore, ti colpisce le orecchie e poi ti passa nel cuore. Senti come va, senti, senti, senti come va, senti come va. Senti, senti, senti come va. Libera l'anima. Libera, libera. Libera l'anima. L'anima. Tutta la droga del mondo non vale un grammo della mia adrenalina. Libera l'anima. Libera l'anima. E non è mai troppo tardi, e non è mai troppo presto, per fare quello che ho chiesto, per fare quello che ho chiesto. Libera l'anima. Libera l'anima. Thank you.